14. La Seconda Guerra Mondiale. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la maggior parte degli aerei era equipaggiata con motori gnome e Tron oppure ispano-suizza. Davanti a lei si trova il 12Y, il principale motore ispano-suizza dell'epoca. La guerra fu un periodo oscuro per gnome e Tron. Dopo l'invasione tedesca, l'azienda fu costretta a lavorare per l'occupante. A causa della resistenza che si sviluppò nelle fabbriche, la produzione passò da 1000 motori al mese a circa un centinaio. Durante i combattimenti per la liberazione, le fabbriche parigine furono in parte distrutte dai bombardamenti alleati. Alla sua sinistra osservi il motore radiale della marca Continental. Questo motore equipaggiava i carri armati americani Sherman. Per mantenere attive le sue fabbriche, Sneckman ne riparò quasi 5000.